Lo sai, c'ho il cuore ad orologeria, perché può esplodere se tu dai il via. E so che anche se è una giornata no, poi il sole passerà, indifferente come gente davanti a un clochard che vive tra il mare e la ferrovia. Ma anche il più bel paesaggio è sempre di passaggio. Io non lo so, nei tuoi occhi cosa c'è? La California, il Grand Canyon, l'Everest. Guardandoti però so che mi perderò, casa mia. Io non so neanche dov'è. Lasciami pure i tuoi difetti, li terrò stretti come quando fa freddo i denti lungo via 20, che poi un tatuaggio non fa male quando lo fai, però può farti molto male quando ti penti. Ho scritto a mio nonno anche poi dopo che lui se n'è andato, ma dopo qualche giorno mi son vergognato. Non si può tornare indietro, non credo che cancellerò il suo numero al telefono, lo tengo ancora per un po'. Io non lo so, nei tuoi occhi cosa c'è? La California, il Grand Canyon, l'Everest. Guardandoti però so che mi perderò, casa mia. Io non so neanche dov'è. Dov'è, dov'è, dov'è. Io non lo so, nei tuoi occhi cosa c'è? La California, il Grand Canyon, l'Everest. Guardandoti però so che mi perderò, casa mia. Io non so neanche dov'è.